ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Ci sono oltre 500 ricoverati in più e 47 in più in terapia intensiva. La curva delle persone che finiscono in ospedale corre parallela a quella dei contagi e spinge la Lombardia a chiedere l'imposizione di un vero e proprio coprifuoco. Dalle 23 alle 5 dovrebbe scattare da giovedì. Di notte non ci si potrà muovere se non per giustificati motivi. Resta la tensione tra governo e sindaci sull'ultimo decreto, resta quella tra il PD e il Presidente del Consiglio sull'utilizzo o meno del Fondo Salva Stati, in una giornata nella quale il Presidente del Consiglio ha illustrato la manovra insieme al Ministro Gualtieri. Quest'ultimo ha annunciato che l'assegno unico arriverà ad un massimo di 200 euro a figlio. Fronte americano, arriva una notizia non buona per Donald Trump. La Corte Suprema ha deciso che i voti per posta in arrivo dalla Pennsylvania, uno degli stati in bilico, saranno validi anche quando arriveranno fino a 3 giorni dopo l'Election Day. I repubblicani avrebbero voluto un'altra scadenza. Ah, e dall'Italia c'è anche il caso Davigo, compie oggi 70 anni e ieri il CSM ha deciso che è fuori dal Consiglio Superiore della Magistratura. Lui avrebbe voluto rimanere dentro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Sono le 6:32 minuti e 20 secondi. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. È martedì 20 ottobre. Carmelo Lauricella regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera in redazione, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. E ci siete voi, ovviamente, che potete raggiungermi al 349-238-6666 con i vostri sms, i vostri messaggi su WhatsApp, gli WhatsApp audio, tutto quello che volete. E come la pensate? Vi convince questa ipotesi di coprifuoco dalle 23 alle 5? A vostro giudizio ha un qualche senso epidemiologico oppure no? Poi naturalmente sono gli epidemiologi a doverlo dire, sono i virologi, però, è questo il punto, è proprio la vita che si fa dalle 23 alle 5 del mattino quella che genera il maggior numero di contagi, o sarà mica ai trasporti pubblici, tanto per fare un esempio, o molto altro, i livelli di disattenzione. Poi non so come la vedete, io continuo a leggere titoli di giornale che ci raccontano della nostra estate dell'irresponsabilità. Qualcuno un po' irresponsabile lo è stato, sicuramente. Però, lo Stato in tutte le sue articolazioni, dal governo centrale, passando per le regioni e arrivando ai comuni, è stato responsabile. Le terapie intensive sono raddoppiate effettivamente come ci avevano detto che sarebbero raddoppiate? I posti letto ci sono? L'assistenza territoriale c'è oppure no? No, non c'è. I vaccini antinfluenzali ci sono per tutte le persone che ne hanno bisogno? Probabilmente no. Qualcuno ha provato ad organizzare gli orari delle scuole scaglionandoli? Penso ai comuni nella fattispecie? E a spendere per bene quei soldi che il governo ha stanziato a giugno, luglio, a maggio addirittura per il trasporto pubblico? No. Abbiamo abbastanza gente che traccia i contatti dei contagiati? Ve lo dico io, no. E quindi, volete darci degli irresponsabili perché siamo stati un po' leggeri quest'estate? Volete darci degli irresponsabili perché la sera alle 23, dopo le 23, ci beviamo un bicchiere con un amico? Fatelo pure. E però, La vostra responsabilità prendetevela, e piantatela di fare lo scaricabarile. Così iniziamo bene stamattina, Iniziamo bene. Intanto, mossa pop del presidente del Consiglio Conte, che chiama Fedez e la Ferragni e gli dice: aiutatemi che i ragazzi non mettono la mascherina. E così succede questo. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. E se queste stories anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull'esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, all'utilizzo della mascherina. E io mi sto sforzando di trovare un modo di essere il più convincente possibile, probabilmente non esiste modo. Quello che posso dire è che, ragazzi, ci troviamo in una situazione molto molto molto delicata, e che l'Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown, e che in qualche modo il destino e il futuro dell'Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi, e con un semplice gesto potremmo in qualche modo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando, ragazzi, utilizzate la mascherina. Situazione Lombardia, il famoso coprifuoco, il presidente lombardo Fontana. Non si possa circolare per le vie della Lombardia, e questo per cercare di dare un colpo ad una delle cause del contagio, che è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che purtroppo non si riescono a controllare, perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di polizia, di agenti che possano cercare di intervenire, e la soluzione migliore credo che possa essere questa. La situazione tra 15 giorni, sempre secondo Fontana. Ti inducono ad avere il timore che entro 15 giorni, entro la fine di questo mese, si possa verificare una situazione che non sarebbe ancora da collasso, ma che sarebbe sicuramente impegnativa. E perdonatemi, oggi avremo ospite Giulio Gallera alle 8.45, l'assessore al welfare della Regione Lombardia. Ovviamente gli rivolgeremo delle domande su questo, perché io trovo un po' paradossale che la regione più colpita nella prima ondata del virus si trovi, per certi versi, così impreparata da non avere nemmeno la capacità di tracciare i contagi, come dice Vittorio De Micheli, il direttore sanitario della ATS di Milano. Mentre nella prima ondata Milano era stata solo lambita, quando c'è stato il lockdown i casi erano pochissimi e quindi è stata risparmiata, questa volta sembra proprio essere l'epicentro. Il nostro sistema di tracciatura, che è quello che serve a trovare i contatti e a metterli rapidamente in isolamento, non li riesce a trovare tutti in tempo, quindi abbiamo urgente bisogno di frenare il contagio anche con altri mezzi. Cara Flavia Perina, buongiorno. Buongiorno. Scrive per La Stampa, per L'Inchiesta. Cara Flavia, che ne pensi di questa situazione lombarda? Sono troppo duro? No, io penso di no. Io penso che sia, appunto, che è il momento di essere rigorosi, e poi chi non l'ha capito lo dovrà capire in qualche modo. Mi spiace che poi in tutto questo discorso pubblico sulle responsabilità, sul stiamo attenti, eccetera, si punti moltissimo sulle responsabilità dei cittadini e manchino delle parole, no? Ad esempio, già da tempo manca la parola trasporti, d'accordo, gli assembramenti serali, la movida, i ragazzi, ed è giusto che ci siano dei limiti a tutto questo, però noi sappiamo che uno dei principali luoghi dove è difficile ottenere il distanziamento sono i trasporti pubblici, la metropolitana, gli autobus, non se ne parla più. Come se appunto si fosse dato per scontato che lì è impossibile fare qualsiasi cosa, e quindi ci si deve rivolgere altrove per cercare di arginare i contagi. Sarebbe bene invece riprendere anche questi discorsi, perché io non credo che ci siano solo le responsabilità dei cittadini, ci sono anche le responsabilità di chi gestisce le cose. Esattamente questo il tema, tanto che poi si arriva ad una chiusura chiusure devastanti, devo dire la verità, come quella messa in atto da De Luca in Campania, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, tranne quelle da 0 a 6 anni, che poi però non sono scuole, sono materne, asilo nido e via dicendo, che tra l'altro potrebbero essere estesi, notizia di ieri, di altre 2 settimane. Mi sembra che ci avviciniamo a quello che diceva a questi microfoni Luigi De Magistris, che pure ha un conto politico aperto con De Luca, e quindi mettiamoci tutto quello che vogliamo, che però il rischio che si arrivi a Natale con le scuole mai riaperte, solo con didattica a distanza in Campania, inizia a diventare concreto, Flavia. Sì, ma io penso che forse è quello anche il progetto, cioè l'idea di tirarla per le lunghe, di agganciare questo lockdown scolastico alle ferie di Natale in modo da avere una sospensione piuttosto consistente. Tutto questo fatto senza nessuna evidenza scientifica, perché nessuno ha né dimostrato, anzi i dati dimostrano il contrario, che le scuole siano un elemento di contagio importante. La percentuale di contagiati nelle scuole era molto bassa, sotto il 5%, e sicuramente era uno degli ultimi posti dove bisognava andare a guardare, però certo, e così si dà l'idea, appunto, De Luca in questa maniera dà l'idea di conservare il suo ruolo di sindaco sceriffo, e intervenendo, tra l'altro sono stupita che il governo non abbia fatto ricorso con questo provvedimento. L'istruzione è un diritto costituzionale. Sì, no, e l'altro non è che un governatore sì, può andare a incidere su un diritto costituzionale così importante. Sì. E così come è un diritto anche il lavoro delle donne, cioè chiudere le scuole, poi nessuno lo dice mai, che cosa significa? Significa che penso che molte madri di bambini, diciamo tra i 6 e i 11-12 anni, l'età in cui si possono cominciare a lasciare a casa da soli, dovranno restare a casa. Certo. Certo, naturalmente. Tra l'altro in una regione nella quale l'occupazione femminile, lo diciamo nei giorni scorsi, è già al 30%, tra le più basse d'Italia, l'occupazione femminile in Campania. Quali altre voci? Beh, poi c'è tutta quest'altra questione, lo scontro tra il governo e i sindaci. Anche qua, consentitemi, io vedo una situazione paradossale, però iniziamo a sentire qualche voce, quella di Dario Nardella, per esempio, il sindaco di Firenze. I sindaci, si dice, sono autorità sanitarie locali, non possiamo neanche assumere un medico. Si dice che dobbiamo occuparci della sicurezza dei cittadini, io non ho nessuna autorità neanche sul poliziotto meno graduato di tutti. Non si può a questo punto scaricare il coprifuoco sui sindaci. Il sindaco di Bari, che è anche il presidente dell'Associazione dei Comuni, De Caro. Il modo più importante è che abbiamo fatto riunioni fiume sabato e domenica e nessuno ha sollevato questo tema delle ordinanze di chiusura di alcune zone limitate dalla città. Non possiamo accendere il televisore e trovare il presidente del Consiglio Conte che la prima cosa che dice è che i sindaci devono fare il coprifuoco in alcune zone della città. Non è corretto dal punto di vista istituzionale. Anche qua, Flavia, io ci leggo, devo dirti la verità, un paradosso, che è questo: quando si tratta di movida d'estate, di violenza, cioè di una situazione normale, non da Covid per così dire, i sindaci si prendono tutte le cose che si devono prendere, dicono va bene, allora chiudiamo questa piazza, da questo momento in avanti non si possono più distribuire gli alcolici, eccetera eccetera, poi improvvisamente il governo gli dice vabbè, nelle vostre città muovetevi come credete, organizzandovi con il prefetto, e ribellione, non si può fare improvvisamente. È un po' paradossale anche questo, no? No, beh, è paradossale soprattutto perché nella prima emergenza i sindaci si erano lamentati tantissimo esattamente al contrario, cioè dicevano che il governo non gli aveva affidato abbastanza poteri, non aveva collaborato con loro, erano stati tenuti ai margini di tutte le decisioni sull'emergenza e che avrebbero voluto decidere di più. Tra l'altro i sindaci italiani sono famosi, poi ovviamente salvo eccezioni più serie, per tutta una serie di ordinanze fantasia, no? L'estate producono ordinanze per non camminare nelle città con gli zoccoli, contro le canottiere, cioè tutte cose che fanno fare titoli sui giornali, dimostrando poi di avere dei poteri, appunto di poter disporre delle cose anche molto spesso piuttosto buffe. Adesso che ci sono cose serie da affrontare, improvvisamente si accorgono che invece quei poteri non gli bastano e che non comandano nessuno. In realtà i sindaci possono gestire la polizia urbana ed è la polizia urbana che si occupa di queste cose. La verità è che in questa circostanza non vogliono assumere il ruolo che sì. giudicano impopolare di sceriffi, sì. mentre nella prima fase dell'emergenza il ruolo degli sceriffi era popolare, si facevano riprendere sì. mentre andavano nelle piazze strillando andate a casa, che fate? Abbiamo visto centinaia di video di questo tipo. In questa circostanza il ruolo invece non rende più politicamente, quindi sì. se ne vogliono tenere alla larga. Che se vogliamo è anche il motivo per il quale gli ultimi due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono un pochino, almeno stando ai virologi, agli immunologi, a un pezzo del Comitato Tecnico Scientifico, sono un po' dei pannicelli caldi, perché politicamente non rende fare i cattivi in questo momento. Traffico. Quattro mattino. Guardate, neanche morto, ma lo dico, ma no, scusate, ma non è che lo dico per, non è, a me piacciono altre cose, mi piace molto il lavoro che sto facendo con Paolo ed è una cosa diversa, però è lo devo dire con grande chiarezza per una ragione, che se io adesso utilizzassi il lavoro fatto sul tavolo Roma per candidarmi a fare il sindaco di Roma sarei un cialtrone e quindi non lo farò. Sì, ho deciso, mi candiderò per fare il sindaco di Roma, mi candiderò per fare il sindaco di Roma perché penso che chi ha una possibilità di prendere questa che è la città dove è nata in fondo anche la cultura occidentale e riportarla tra le grandi capitali europee, beh, lo deve fare. È un dovere, insomma, quindi, io penso è un dovere, è una grande avventura, quindi sì, lo farò. Cara Flavia, chiudiamo qua ma con questo Calenda del 2018 e un Calenda radicalmente cambiato solo l'altro ieri, eh? Hai sentito? Ma la politica ormai corre veloce, 2 anni significano tanti, cambiano le condizioni, cambiano le situazioni e probabilmente Calenda, diciamo, aveva ambizioni più grandi con questo suo partito, si è reso conto che per sostenere quel tipo di ambizione gli serve qualcosa che faccia parlare di lui, gli serve una sfida, gli serve un campo di battaglia e alla fine secondo me è anche un bene perché obbligherà anche gli altri a darsi un po' una mossa. I partiti, sia il centrodestra sia il centrosinistra, erano tutti quanti molto prudenti sulla questione Roma, molto lenti, stavano arrovellandosi sì. e adesso dovranno tirar fuori le loro proposte. Decisamente. Comunque ne parleremo nei prossimi giorni con lo stesso Calenda che verrà nostro ospite anche di questa dichiarazione di febbraio, perché ieri è girata molto sui social questa dichiarazione del febbraio 2018. Tra l'altro sul fronte amministrativo emerge un'idea: Bassolino candidato a sindaco di Napoli, un mega ritorno, vedrò che fare, dice oggi al Corriere della Sera. Vedremo, cara Flavia. Intanto fammi salutare Bruno Molea, presidente dell'AICS, Associazione Italiana Cultura Sport. Buongiorno Molea, benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Io non ho capito chi si può allenare e come. Cioè, guardi, gliela metto semplice. Ho mia figlia ha 14 anni, gioca a calcio e ancora non abbiamo capito se stasera alle 19 potrà allenarsi oppure no. Sono un esempio di un cittadino come tanti altri che si stanno facendo questa domanda. Che ci dice? Ma in effetti, come dire, di chiarezza ce n'è bisogno perché poi CM ha detto una serie di cose ma non ha approfondito. In questi giorni ci sono stati contatti continui con il Ministero appunto per chiarire la situazione. La situazione ad oggi è questa, dal mio punto di vista e dall'osservatorio che è privilegiato, che occupo. Tutto ciò che è finalizzato all'allenamento funzionale, alla migliore prestazione durante l'attività agonistica, quindi la realizzazione di un campionato, sia esso di tipo amatoriale come quello delle associazioni di promozione sportiva, come quelli che fa l'AICS, siano essi della federazione, possono allenarsi tranquillamente. E quello che al momento è escluso è la promozione sportiva in senso lato, l'attività di base in senso lato, quella giovanile, quella fatta con i bimbi, fatta con i giovanissimi, tutta tutta questa attività al momento è bloccata. Questa è la situazione, purtroppo. Cioè, sua figlia ha 14 anni, gioca in una esempio, squadra, è un esempio, è un esempio, però è un esempio come sì, tanti no, altri. Per rispondere no? all'esempio. Sì, prego, prego, diceva. Se uno ha un figlio di 14 anni che gioca in un campionato, che succede? Sì, sta in una squadra che partecipa a un campionato, può allenarsi e può fare attività regolarmente, funzionalmente, voglio dire, al campionato che svolge. Diversamente gli allenamenti si fanno con le condizioni che c'erano prima, quindi autonomamente, con distanziamento, eccetera, eccetera. Quindi, se ho capito bene, Molea, possono allenarsi ma non fare la partitella, tanto per fare un esempio. Capoli ammogliati, per essere molto chiari, sempre per fare gli esempi, purtroppo in questo momento sì. non possono. Sì, e chi fa gli allenamenti, per esempio i ragazzini, possono probabilmente fare l'allenamento, ma non possono giocare la partitella finale, sia che sia esatto, basket, che sia esatto, calcio, che sia esatto, che siano cose di questo genere, quindi possono correre, fare tutti gli ci scatti, per esempio tirare in porto, tirare a canestro e via tutto dicendo. Tutto ciò che riguarda il perfezionamento tecnico in maniera individuale può essere continuato a fare. Ok, e questo è un elemento importante, anche in Lombardia? Che tutto quello che io le sto dicendo è comunque subordinato poi alle decisioni che i singoli governatori che hanno potere per farlo decidono di prescrivere in termini ancora più restrittivi rispetto al DCPM, al DPCM. E quindi è chiaro che noi come dirigenti nazionali diamo indicazioni di carattere nazionale, che poi comunque devono queste indicazioni essere riconfrontate con quanto i governatori decidono nei loro territori. Vedasi quello che sta succedendo in Lombardia, quello che è successo in Campania e altre cose che magari verranno avanti. Del resto il problema sì. oggi è quello di evitare quanto più possibile che ci siano degli assembramenti. E purtroppo non sono i ragazzini che vanno a fare attività sportiva, che provocano l'assembramento e il rischio di contagio, ma è tutto ciò che prima e dopo comporta il loro spostamento, per cui l'uso di mezzi pubblici, l'assembramento di genitori nel momento in cui vengono consegnati i ragazzini. Sono queste le cose sulle quali si vuole cercare di intervenire. Non è l'attività sportiva dei giovanissimi in senso lato quella che preoccupa. Sì, è chiaro, è un po' confuso questo decreto. Tenga conto che le associazioni come la mia, come ICS, ma anche altre, le federazioni, tutti abbiamo emanato protocolli abbastanza stringenti, li stiamo applicando e stiamo controllando in maniera abbastanza severa che vengano rispettati. Quindi voglio dire, non è nel momento in cui si fa sport il problema, è dopo e prima. E questo è il punto. Che vi devo dire? Aspettiamo indicazioni anche dalle singole federazioni per capire se gli allenamenti vostri e dei vostri figli potranno riprendere. Grazie a Bruno Molea, presidente dell'Associazione Italiana Cultura dello Sport. Ci dice un ascoltatore, un'ascoltatrice, i kata nel karate in Italia e in Lombardia penso che si possano fare, cioè è una cosa individuale, il kata lo fai individualmente. Un altro dice il basket col distanziamento e non lo so, andrai in campo e farai quelli, per chi si è allenato a basket sa di cosa sto parlando, farete i suicidi e basta, e tirerete, farete tiri liberi, tiri da tre e non vi allenerete con una partitella, questo farete, che dobbiamo fare? Così è, almeno da quel che capiamo, poi non è chiarissimo. Grazie anche a Flavia Perina, giornalista dell'Inchiesta e della Stampa, per essere stata con noi. GR24, ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna. Tante cose. E anche la vicenda da Vigo, A tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.